Ta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In primo piano l'attentato di New York. Volevo uccidere ancora, dice l'uomo arrestato che avrebbe agito in nome dell'ISIS. Duro Trump, l'attentatore è un animale, dice il presidente americano, che ha intenzione di chiedere al Congresso di mettere fine al programma di assegnazione dei visti, in sostanza la lotteria che assegna i visti, di cui ha beneficiato anche l'autore della strage. Basta con il politically correct nel rispondere alla sfida del terrorismo, ha detto ancora Trump, che non esclude di inviare a Guantanamo l'attentatore di New York. Verso il voto di domenica in Sicilia ci sarà anche la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, all'incontro con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi domani sera a Catania, al termine dei comizi separati a sostegno di Nello Musumeci. Berlusconi guarda oltre il voto regionale, parla di accordo nel centrodestra su come deve essere formato il prossimo Consiglio dei Ministri e sul programma, ma Salvini frena. Il presidente destituito della Catalogna, Puigdemont, non tornerà in Spagna e non si presenterà in udienza davanti ai giudici domani. Lo ha detto il suo avvocato, secondo cui Puigdemont dovrebbe essere interrogato in Belgio. Intanto lui, Puigdemont, twitta: malgrado la violenza e le minacce passate e presenti, continuiamo a lavorare. Orgoglio di popolo. Il ministro della difesa britannico Michael Fallon si è dimesso poco fa sull'onda delle accuse di molestie sessuali e comportamenti impropri che lo hanno toccato assieme ad altri esponenti conservatori e membri del governo di Theresa May. La premier ha convocato i leader dei partiti per discutere delle contromisure da prendere e ha promesso un approccio il più possibile trasparente sullo scandalo. E anche Dustin Hoffman è accusato di molestie. Anna Graham Hunter scrive che quando era stegista sul set di Morte di un commesso viaggiatore nel 1985, aveva 17 anni, l'attore la molestò. Dustin Hoffman si scusa: mi fa sentire terribilmente male sapere che qualcosa che ho fatto possa averla messa a disagio, mi dispiace, non riflette la persona che sono. Una tangente da 20.000 euro nella scatola dei biscotti con l'accusa di istigazione alla corruzione finisce ai domiciliari l'imprenditore Gerardo Biancofiore, presidente di Ance Puglia. E siamo allo sport. In campo per la Champions League Napoli e Manchester City, partenopei obbligati a fare risultato contro gli inglesi. Eccoci qua, buona serata da Maria Piera Ceci, puntata di Effetto Notte, per la quale ripartiamo proprio dall'attentato di New York. 8 le vittime, 5 gli argentini. Il presidente americano Trump annuncia la linea dura contro la lotteria dei visti per l'immigrazione e non esclude di inviare l'attentatore uzbeko a Guantanamo. New York e gli Stati Uniti cercano di tornare faticosamente alla normalità dopo l'attentato di ieri, ma adesso la parola appunto passa alle indagini e alle polemiche politiche. Le indagini vedono le autorità federali indagare sui legami possibili del terrorista di origine uzbeka, il 29enne attentatore, con altri sospetti di terrorismo e con un processo di radicalizzazione domestica che si sarebbe verificato nei 7 anni in cui ha vissuto negli Stati Uniti. Sul fronte politico, Trump ha accusato i programmi di immigrazione, in particolare di consegna della carta verde attraverso la lotteria, di essere ingiustificati, ha chiesto una loro cancellazione al Congresso e ha detto anche di essere disposto, pronto a mandare l'attentatore nella prigione a Cuba di Guantanamo, dove nessun arrestato per terrorismo negli Stati Uniti è mai finora stato esiliato. Un viaggio per festeggiare un'amicizia che durava da più di 30 anni, compagni di liceo cresciuti nella stessa città, Rosario. Una tradizione simile a quella italiana dei coscritti, un momento almeno all'anno dove rivedersi tutti insieme. Chi non aveva potuto viaggiare a New York aspettava gli altri per una festa che si sarebbe dovuta tenere sabato prossimo. La tragedia ha sconvolto l'intera città. Il presidente argentino Maurizio Macri ha saputo della notizia durante un incontro pubblico e ha ribadito l'impegno del suo governo nella lotta globale al terrorismo. Marca che non hay lugar para zonas grises. Nel mondo non c'è spazio per zone grigie. Dobbiamo essere uniti, senza esitazioni, contro una minaccia che colpisce tutti i popoli liberi. I familiari sono sul posto per il riconoscimento dei corpi, hanno viaggiato assieme a loro alcuni compagni che erano rimasti in Argentina. A Rosario e molte altre città oggi le bandiere sono rimaste a mezz'asta. Negli stadi di calcio il prossimo fine settimana è previsto un minuto di silenzio e le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio. Emiliano Guanella, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana con le regionali di domenica in Sicilia. Accordo con Salvini e Meloni per il governo del paese, dice Berlusconi a Palermo. A pochi giorni dal voto in Sicilia, i big del centrodestra che sostengono il candidato Nello Musumeci si danno appuntamento a Catania. Domani, nel tardo pomeriggio, al termine dei comizi, ci sarà infatti un incontro tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, arrivato nell'isola per gli ultimi appuntamenti elettorali prima del voto di domenica. Il numero uno di Forza Italia intanto sale sul palco a Palermo e guarda oltre il voto regionale. Con Lega e Fratelli d'Italia c'è un accordo su programma e governo, dice Berlusconi. Nel nostro Consiglio dei Ministri ci saranno 20 ministri, di cui 8 politici, e cerca di spazzare via le polemiche sui candidati impresentabili nelle elezioni siciliane. Credo che abbiamo messo in campo gli uomini giusti, qualcuno ha sollevato eccezioni su uno o due candidati, c'è un sistema delle preferenze, se non vi sembrano candidabili non li votate. E quindi è un problema che non esiste. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo che alle regionali in Sicilia Radio 24 sta dedicando un viaggio tutti i giorni nel GR delle 7. E a proposito di Berlusconi, sono state pubblicate oggi le motivazioni della sentenza che in aprile ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione nei confronti di Berlusconi e Walter Lavitola riguardo la presunta compravendita dei senatori che avrebbe poi contribuito alla caduta del governo Prodi. Berlusconi e Lavitola in primo grado vennero condannati a 3 anni. Berlusconi ha agito pacificamente come privato corruttore, non come parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, si legge nelle motivazioni. Rosatellum, il Movimento 5 Stelle si rivolge a Mattarella e nella maggioranza polemiche sulla legge di stabilità. Prosegue il lavoro sulla legge di stabilità che potrebbe arrivare nell'Aula del Senato una volta concluso l'esame degli emendamenti dopo la metà di novembre, ma intanto opposizioni, centristi e MDP danno battaglia. No alla manovra senza bonus bebè, tuonano i 24 senatori alfaniani. Se la misura non verrà rifinanziata, dicono, saremo più che intransigenti, saremo feroci. Una reintroduzione in realtà richiesta anche da alcuni senatori del PD. E anche MDP mette i suoi paletti al decreto fiscale, provvedimento al vaglio del Senato insieme alla legge di bilancio, se non si elimina la rottamazione bis delle cartelle, che equivale a un condono, dice la capogruppo Cecilia Guerra, si lascia un'ipoteca gravissima sulla possibilità che i bersaniani lo votino. Sul piede di guerra anche il Movimento 5 Stelle, che apre un altro fronte polemico sulla legge elettorale e in una lettera aperta pubblicata sul blog di Grillo invita il capo dello Stato a evitare la catastrofe istituzionale di un nuovo Parlamento eletto con una legge illegittima. Il Rosatellum, si sottolinea, contiene evidenti storture sia formali che sostanziali, ma che possono avere un effetto dirompente sulla nostra democrazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Puigdemont non torna in Spagna, domani non si presenterà davanti ai giudici. Ad un mese esatto dal referendum sull'indipendenza, il presidente catalano Puigdemont lancia dal Belgio la prima sfida alle autorità spagnole. Se la giudice dell'Audienza Nazionale intende interrogarlo, fa sapere attraverso il suo avvocato Paul Becart, dovrà accettare una deposizione da Bruxelles e, aggiunge, qualsiasi richiesta di estradizione da Madrid verrà appellata. Sulla stessa linea di Puigdemont, i 4 ministri deposti che lo hanno seguito oltre confine. Dalla capitale europea, il presidente catalano ha ricordato in un tweet l'anniversario del 1 ottobre e ha lanciato un sito web da presidente in esilio. Il weekend si preannuncia caldo a livello giudiziario. L'intero governo catalano deposto, insieme alla giunta del Parlamento dissolto, si dovrà recare a Madrid per venire interrogato, rischiando l'arresto preventivo e più avanti pene gravi fino a 30 anni per sedizione e ribellione. Una messa alla sbarra dello Stato Maggiore catalano che potrebbe costare molto cara a Madrid, dopo che gli ultimi sondaggi hanno mostrato una forte crescita di cittadini favorevoli all'indipendenza, ormai quasi 1 su 2, e comunque in maggioranza rispetto agli unionisti. 200 persone sono andate alla stazione di Barcellona Sanz per salutare 2 dei parlamentari in partenza per Madrid. Il tutto mentre il vicepresidente catalano Junqueras, in un articolo sul New York Times, avverte: la Repubblica Catalana è in vigore, il suo governo non si considera deposto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lo sentivamo anche nei titoli, il ministro della difesa britannico Michael Fallon si è dimesso poco fa sull'onda delle accuse di molestie sessuali e comportamenti impropri che lo hanno toccato assieme ad altri esponenti conservatori e membri del governo di Theresa May. La Premier, da parte sua, ha convocato i leader dei partiti per discutere delle contromisure da prendere e ha promesso un approccio il più possibile trasparente sullo scandalo, raccogliendo anche il sostegno del leader dell'opposizione Jeremy Corbyn. Dalla Gran Bretagna ad Hollywood, nuove accuse di molestie per Kevin Spacey e una scrittrice ora denuncia anche Dustin Hoffman. Come accadde nel caso di Harvey Weinstein, la prima persona a denunciare spinge altri a raccontare il passato. E arrivano nuove accuse contro Kevin Spacey. Un attore e un documentarista, entrambi messicani, e un barman inglese sostengono di essere stati molestati dal divo hollywoodiano. Episodi non lontani nel tempo, questa volta avvenuti negli anni 2000. Il regista Tony Montana sostiene di essere stato per 6 mesi in cura per trattamento post-traumatico da stress. E ad accusare Spacey è anche un altro uomo, che ha voluto rimanere anonimo, che alla BBC ha raccontato di un episodio risalente agli anni 80. La vittima aveva 17 anni ed era uno studente di teatro. Ora l'ondata di scandali arriva a toccare anche un altro mostro sacro del cinema, Dustin Hoffman. In un articolo su Hollywood Reporter, Anna Graham Hunter, allora giovane stagista, ora scrittrice, racconta che sul set di Morte di un commesso viaggiatore, anno 1985, lei aveva 17 anni, Dustin Hoffman la molestò. L'attore risponde scusandosi: quelle azioni non riflettono chi io sono. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 7 cadaveri sono stati recuperati a bordo di un gommone diretto verso l'Italia al largo delle coste libiche durante un'operazione di soccorso. Sono state prese a bordo alcune decine di migranti che erano sull'imbarcazione. Uno dei proprietari della storica villa Massoni di Massa avrebbe ucciso il fratello investendolo con l'auto nel parco della loro proprietà. È accaduto oggi pomeriggio. I carabinieri hanno arrestato Marco Casonato con l'accusa di aver travolto intenzionalmente il fratello Piero. I motivi sarebbero da ricercare nella contesa per la proprietà di cui Marco era il custode giudiziario. E fra molte misure di sicurezza, con 900 uomini sono scesi in campo a San Paolo, Napoli e Manchester City, partita preceduta da qualche violenza da parte dei tifosi partenopei, ma in questi minuti le due squadre sono in campo, dunque è il calcio a parlare, ce ne riferisce Giovanni Capuano. Giovanni, come sta andando? Sì, buonasera, sono in campo esattamente da 29 minuti nel corso del primo tempo. Sul campo sta andando benissimo per il Napoli, che conduce 1-0, gol di Insigne al 21esimo. Napoli, che ha giocato un calcio stellare in questa prima mezz'ora di gioco, ha messo in difficoltà il Manchester City di Guardiola, ha avuto diverse occasioni, Manchester che non ha mai tirato verso dentro la porta di Reina. Il gol, dicevamo, è arrivato al 21esimo ed è stato un gol bellissimo, un triangolo da favola tra Insigne e Mertens, un triangolo partito sulla tre quarti, poi Insigne ha controllato col destro, ha messo sul secondo palo, imprendibile per Ederson, portiere del Manchester City. Dopo il Napoli ha continuato ad attaccare, dunque un Napoli che sta assolutamente legittimando questo vantaggio. Pochi istanti fa una cattiva notizia: l'infortunio di Ghoulam, che sta abbandonando proprio in questi istanti il terreno di gioco per problemi fisici. Al suo posto entrerà Maggio. C'è qualche problemino anche per Mertens, ma insomma fin qui una serata sul campo trionfale per il Napoli. Nell'altra gara del girone lo Shakhtar conduce 2-1 sul Feyenoord. In questo momento il Napoli è terzo in classifica con 6 punti, 3 in meno di Shakhtar e Manchester City, ma certo, se dovesse finire così, le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale per la squadra di Sarri crescerebbero. Il tutto, come raccontato, dopo una giornata che è stata purtroppo costellata anche da episodi che il questore di Napoli ha definito di violenza e viltà, episodi che hanno portato al ferimento di 4 persone, 3 tifosi inglesi e un ristoratore napoletano che cercava di salvaguardare l'incolumità dei tifosi inglesi. Grazie, grazie a Giovanni Capuano, che ritroveremo nella seconda parte di Effetto Notte, continuerà a raccontarci questa partita così importante. Noi ci fermiamo per qualche istante, strade in diretta, poi torniamo insieme. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti di oggi. In primo piano l'attentato di New York. Volevo uccidere ancora, dice l'uomo arrestato che avrebbe agito in nome dell'ISIS. Duro il presidente Trump. L'attentatore è un animale, dice il presidente americano, che ha intenzione di chiedere al Congresso di mettere fine al programma di assegnazione dei visti, in sostanza la lotteria che segna i visti, di cui ha beneficiato anche l'autore della strage. Verso il voto di domenica in Sicilia ci sarà anche la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, all'incontro con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi domani sera a Catania, al termine dei comizi separati, a sostegno di Nello Musumeci. Berlusconi guarda oltre il voto regionale e parla di accordo nel centrodestra su come deve essere formato il prossimo Consiglio dei Ministri e anche sul programma, ma Salvini frena. Il presidente destituito della Catalogna Puigdemont non tornerà in Spagna e non si presenterà in udienza davanti ai giudici domani. Intanto Puigdemont twitta: malgrado la violenza e le minacce passate e presenti, continuiamo a lavorare, orgoglio di popolo. E poco fa il ministro della difesa britannico Michael Fallon si è dimesso sull'onda delle accuse di molestie sessuali e comportamenti impropri che lo hanno toccato assieme ad altri esponenti conservatori e membri del governo di Theresa May. E anche Dustin Hoffman è accusato di molestie ora. Anna Graham Hunter, l'abbiamo sentito anche poco fa nel GR, scrive che quando era stagista sul set di Morte di un commesso viaggiatore nel 1985 e aveva solo 17 anni, l'attore la molestò. Dustin Hoffman si scusa: mi fa sentire terribilmente male sapere che qualcosa che ho fatto possa averla messa a disagio. Una tangente da 20.000 euro nella scatola dei biscotti. Con l'accusa di istigazione alla corruzione finisce ai domiciliari l'imprenditore Gerardo Biancofiore, presidente di Ance Puglia. L'arresto dopo la denuncia del sindaco di Cerignola, che racconta appunto di aver ricevuto in ufficio una scatola di biscotti con i soldi. Il tentativo di corruzione sarebbe stato compiuto per far approvare il finanziamento del progetto di realizzazione del sesto lotto della discarica di rifiuti solidi urbani nell'impianto SIA di Cerignola. E poi abbiamo sentito anche poco fa l'aggiornamento di Giovanni Capuano. In campo per la Champions League Napoli e Manchester City, il risultato al momento è di 1-0 per il Napoli, partenopei obbligati a fare risultato contro gli inglesi. My administration is coordinating closely between federal and local officials to investigate the attack and to further investigate this animal who did the attacking. Questo animale, così lo avete sentito in questi istanti, Donald Trump definisce l'attentatore di New York che ha fatto 8 morti ieri vicino al World Trade Center. I am today starting the process of terminating the diversity lottery program. Trump ha poi fatto sapere che ha intenzione di chiedere al Congresso di mettere fine al programma di assegnazione dei visti, una sorta di lotteria, di cui ha beneficiato proprio anche l'autore della strage. Basta con il politically correct nel rispondere alla sfida del terrorismo, ha detto ancora Trump, che non esclude di inviare a Guantanamo l'attentatore di New York. Noi di tutto questo parliamo questa sera ad Effetto Notte con Francesca Galli, Jean Monnet Fellow della European University Institute. Buonasera Francesca Galli. Buonasera. Buonasera. Allora, chi è questo attentatore di New York? La polizia oggi pomeriggio ha spiegato che avrebbe agito in nome dell'ISIS. L'uzbeko avrebbe scritto che l'ISIS vivrà sempre. Qual è il suo vero legame con questa organizzazione? Secondo me non siamo ancora in misura di riuscire a dire quale sia il legame vero o non vero. Si possono fare una serie di riflessioni però su quello che è il processo di radicalizzazione di questo individuo. Questo individuo che è arrivato sì negli Stati Uniti nel 2010 grazie a questa green card, ma da quello che leggo in realtà ha cominciato un proprio avvicinamento all'estremismo jihadista soltanto quando era negli Stati Uniti, da quando è arrivato negli Stati Uniti. In realtà noi continuiamo a pensare all'ISIS come pensavamo al terrorismo italiano negli anni 70, in cui c'erano comunque una sorta di gerarchia e una serie di cellule più o meno che agivano secondo delle indicazioni più o meno chiare. L'ISIS in questo momento è più che altro un contenitore che si compone di un'azione territoriale, come sappiamo, in Siria e in Iraq, dove vediamo che c'è in realtà ovviamente un arretramento sui territori, perché dopo la battaglia di Raqqa di 2 settimane fa abbiamo visto una sconfitta anche dell'ISIS da parte delle forze arabe e curde col sostegno americano, e allo stesso tempo l'ISIS sta premendo, nel senso sta facendo passare dei messaggi in rete perché ognuno possa come musulmano nell'Occidente rendersi un terrorista. Quindi l'ISIS in difficoltà sul campo chiama come dire, all'azione coloro che sono invece in Europa e in Occidente. Sì, non è più un fenomeno per cui ci sono dei foreign fighters che partono in Siria e che ritornano poi e possono essere una minaccia. Anzi, questi foreign fighters che non possono più andare perché è più difficile raggiungere la Siria vengono a compiere degli attentati nell'Occidente, che sia negli Stati Uniti e in Europa. Quello che è interessante è che comunque c'è un processo di radicalizzazione che vediamo già da anni, da questi che si chiamano radicalizzati in casa, e sono tendenzialmente lupi solitari che si auto-addestrano e si auto-reclutano entrando in contatto con una serie di realtà, sostanzialmente via internet, ma anche in alcune zone che possono essere sia delle moschee ma anche delle carceri, e quindi con un ruolo importante di internet. Non c'è un legame diretto con l'ISIS, se non che si riconduce il proprio attentato all'ISIS. Anche se lei pensa a quello che sono stati per esempio l'attentato di Manchester a fine maggio, molto spesso anche la rivendicazione da parte dell'ISIS viene tardi e avviene come una sorta di stampino per dire: noi possiamo essere dappertutto, in qualsiasi città. Francesca Galli, com'è invece la risposta di Trump? Abbiamo ascoltato insieme le parole di Trump, molto molto dure. Basta con le lotterie per i visti, viene evocata Guantanamo. È questa la risposta giusta per l'America? Io credo che sia una risposta quantomeno poco lungimirante, una risposta che viene a tornare indietro e riprende quella che è stata la guerra contro il terrorismo che hanno lanciato gli Stati Uniti già all'epoca di Bush. Il problema è che in realtà siamo di fronte a un fenomeno diverso. Questo attentato assomiglia molto di più agli attentati che abbiamo vissuto negli ultimi mesi alla Rambla, a Barcellona, a Londra, a Nizza, a Manchester, in cui si utilizzano le cosiddette armi bianche, per cui non sono pistole ma sono un van, un camioncino buttato contro la folla, che fanno molti meno morti ma che sono altrettanto letali in termini di paura che portano, perché portano il terrorismo ovunque. La risposta di Trump è una risposta poco lungimirante, perché viene nuovamente a dire: io porto la guerra col terrorismo, che vuol dire investire militarmente nei territori e chiudere le frontiere americane, ma se il terrorismo è un terrorismo di radicalizzati in casa, quindi il processo avviene all'interno di persone che sono già residenti sul territorio americano, bisogna pensare ad altre strategie, come ad esempio sta facendo l'Europa o l'Italia. E cosa sta facendo l'Europa e l'Italia in estrema sintesi? In estrema sintesi stiamo investendo sulle quelle che sono strategie di deradicalizzazione e di prevenzione della radicalizzazione, per impedire che questi persone, individui, si sentano in necessità di compiere un attentato. Si stanno compiendo dei tentativi di evitare di inviare delle persone direttamente in carcere, ma contribuire a un loro reinserimento nella società, soprattutto nel caso in cui non siano ancora stati compiuti degli atti violenti, ma ci sia stato un processo di avvicinamento. In Italia si costruisce, grazie all'esperienza che noi abbiamo della dissociazione, del pentitismo, su questo tipo di cose. È appena stata fatta un disegno di legge, appena passato alla Camera nel luglio 2017, che introduce questo tipo di risposta e che ovviamente è meno politicamente pagante, perché darà i risultati forse nel lungo periodo, ma può essere più interessante. Trump investe e sottolinea questo discorso del politicamente corretto. E il Guantanamo non è che sia politicamente corretto o meno, si tratta di un discorso di garanzie giuridiche, certo, non di politically correct. Grazie a Francesca Galli, Jean Monnet Fellow del European University Institute, grazie mille per questa analisi. E noi cambiamo invece decisamente argomento, anche se restiamo negli Stati Uniti, per un altro tema che sta agitando la società americana: lo scandalo molestie ad Hollywood. Un altro attore accusa Kevin Spacey di aver cercato di molestarlo e poi è chiamato in causa anche Dustin Hoffman. Marta Cagnola. Sì, Piera, allora... Dustin Hoffman no, però dai. Ma sai cosa c'è? Poi una volta che si scoperchia il vaso, si sa, tradizionalmente tutti cominciano a raccontare cosa è successo nel passato. Allora, Dustin Hoffman avrebbe molestato una allora stagista 17enne, che poi è diventata una scrittrice, Anna Graham Hunter. Era il set di Morte di un commesso viaggiatore e lui ha risposto semplicemente: quelle azioni raccontate da Anna Graham Hunter non riflettono chi io sono. Quindi non ha detto che non sia vero, insomma, no? Beh, insomma, il problema è anche che sono passati molti anni, perché questi episodi risalgono al 1985. Allora, diciamo, non si ricorda. Fosse stato un episodio unico, uno potrebbe non ricordarsi. Se però cominciano molte persone a raccontare, allora nel caso di Dustin Hoffman la testimonianza è una sola, poi chissà. Insomma, adesso speriamo sta diventando... non ne arrivino altre. No, senti Marta, tu sei collegata dallo studio di Roma, non sì, lo vedo, non siamo vicini, mi no. vedi ma non ci no, sono. Ti sento, più mi che senti. Ti vedo, perché insomma in questi giorni stai seguendo la festa del cinema di Roma, come è sì. giusto che sia. Non se ne parla di questa cosa delle molestie al no festival. No, se ne parla. Ne ha parlato ad esempio Carlo Verdone ieri, perché quando gli hanno chiesto chi sarebbero i Sergio e Nadia di oggi, perché ieri ha presentato il restauro di Borotalco, sì. che insomma uno dice: ma perché c'è già bisogno di restaurare Borotalco? Sì, ha già 30 anni la pellicola, però ecco, quando gli hanno chiesto cosa è cambiato, lui dice: certo, a un certo punto, non so se vi ricordate, c'è la foto di John Wayne e Manuel Fantoni, che finge di l'uomo che finge di essere Manuel Fantoni, di conoscere John Wayne, dice: è perché John Wayne è gay. Insomma, lo dice in un sì. modo un po' diverso, e questa cosa faceva scalpore, mi cade un mito. E invece diceva: oggi questa cosa non farebbe più notizia, come non fa notizia il coming out di Kevin Spacey. In realtà fa notizia qualcos'altro, insomma. Ieri ha fatto questo riferimento al fatto che a far notizia non era sicuramente il coming out, ma certo, le notizie di molesti, certo. Ecco. Ascolta, com'è questo festival, questa festa del cinema quest'anno? Bella, allora, ci sono tanti incontri con il pubblico, tante scuole, di certo è un po' diversa da Venezia, ecco. Allora, intanto è festa e non festival, sì. quindi Venezia deve avere grandi anteprime mondiali, la competizione, qui non c'è la competizione, c'è il premio del pubblico. Molti film non sono in anteprima mondiale, sono film molto belli che arrivano da altri festival, da Cannes, da Berlino, da Toronto, dal Tribeca, quindi il pubblico può vedere film anche godibili, perché insomma alla fine il pubblico a votare, quindi anche se comunque Venezia ha cominciato a sdoganare le commedie, ricordiamo il caso di Amore e Malavita, qui i generi sono tanti, ci sono anche proprio molti film di genere. Tantissimi ragazzi, perché c'è la sezione Alice nella città, come sempre, soprattutto la mattina ci sono scolaresche, ed è bello perché molti film hanno anche dei temi che poi possono essere dibattuti in classe, certo. e questo dà anche l'abitudine al cinema, che è bello, insomma, che i ragazzi prendano. Allora, le star, non ci sono tante star da red carpet nei film, ecco, non ci sono le sfilate delle meravigliose attrici che ad esempio vediamo a Venezia, a Cannes. Ci sono dei bellissimi incontri con il pubblico che sono come sempre un tratto distintivo di Roma. C'è stato Fiorello, c'è stato Nanni Moretti, ci sono anche nomi più raffinati e più per conoscitori, ma che hanno molto appassionato. Oggi c'è stato Ian McKellen, domani ci sarà Vanessa Redgrave, poi arriverà Michael Shannon, David Lynch, poi tra altri nomi Christoph Waltz, o Waltz se volete dire l'americana, Xavier Dolan, Jake Gyllenhaal, Michael Nyman e Chuck Palahniuk. Quindi per palati raffinati, insomma, non solo nomi molto popolari, ecco. E per Radio 24, dove tu continuerai a raccontare questa grande festa del cinema a Roma. Grazie Marta. Con gioia. Grazie mille. Noi ci fermiamo per tempo in diretta. Purtroppo però il Manchester City ha pareggiato sul Napoli. Siamo sull'1-1. Continueremo a raccontarvi anche questa partita. Ci ritroviamo fra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da... Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E abbiamo iniziato parlando dell'attentato di New York. Volevo uccidere ancora, dice l'uomo arrestato che avrebbe agito in nome dell'ISIS. Duro Trump, l'attentatore è un animale, dice il presidente americano, che ha intenzione di chiedere al Congresso di mettere fine al programma di assegnazione dei visti, in sostanza la lotteria che assegna i visti, di cui ha beneficiato anche l'autore della strage. Verso il voto di domenica in Sicilia ci sarà anche la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, all'incontro con Salvini e Berlusconi domani sera a Catania al termine dei comizi a sostegno di Nello Musumeci. Berlusconi intanto guarda anche oltre il voto regionale, parla di accordo nel centrodestra su come deve essere formato il prossimo Consiglio dei Ministri e anche sul programma, ma Salvini frena. Il ministro della difesa britannico Michael Fallon si è dimesso poco fa sull'onda delle accuse di molestie sessuali e comportamenti impropri che lo hanno toccato assieme ad altri esponenti conservatori e membri del governo di Theresa May. E anche Dustin Hoffman è accusato di molestie. Anna Graham Hunter scrive che quando era stagista sul set di Morte di un commesso viaggiatore nell'85, aveva 17 anni, l'attore la molestò. Dustin Hoffman si scusa, mi dispiace, non riflette la persona che sono. E per lo sport, in campo la Champions League con Napoli e Manchester, il risultato è di 1-1 alla fine del primo tempo. Fra poco continueremo a raccontarvi questa importante partita. Ora invece ripartiamo dal voto di domenica in Sicilia e lo facciamo salutando Emilia Patta del Sole 24 Ore. Buonasera Emilia. Buonasera. Allora, dicevamo, domani sera ci sarà questo incontro fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Catania al termine dei comizi a sostegno di Nello Musumeci. Intanto però Berlusconi sembra guardare un po' oltre il voto siciliano. Beh sì, ha già fatto il primo Consiglio dei Ministri. Esattamente, esattamente. 12 ministri che vengono dalla società civile, questo è un messaggio anche ai suoi, insomma, vuol dire ci sarà un grosso rinnovamento nelle liste elettorali, e 8 politici, dando per ormai fatta, scontata l'alleanza anche alle politiche con Salvini e Meloni. In realtà dividere la Lega e Forza Italia sono più cose, in primis quella della premiership, della leadership del centrodestra. Mm-hmm. Infatti Salvini subito frena, insomma qui siamo qui per Musumeci, se ci vogliamo vedere a mangiare una pasta alla fine dei comizi va bene, ma insomma Berlusconi ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, insomma. Esatto, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, insomma può assegnare il punto che è lui il leader della coalizione, se vincerà le elezioni deciderà lui. Mentre Salvini, come si sa, vuole prima pesare Forza Italia e Lega, e se la Lega ha anche solo un voto in più, vuole essere lui a esprimere il candidato premier. Quindi insomma, intanto bisognerà capire come vanno queste elezioni domenica. E sì. Berlusconi ha anche detto che chi vota il Movimento 5 Stelle è una persona che non ragiona, che non ha testa, cioè è andato giù duro. Eh sì, insomma un po' un appello al voto responsabile, al voto utile, a non buttarsi nelle mani di chi non ha esperienza o di chi dove ha governato non se l'è vista finora molto bene. Insomma, Berlusconi parla al suo popolo, ricordiamoci che appunto nelle lontane, però insomma, elezioni del 2001, il centrodestra in Sicilia ha fatto 61-1 nei collegi del Mattarellum, no? Quindi parla a questo suo popolo. I sondaggi danno Nello Musumeci in testa e in effetti la battaglia sarà tra Musumeci e il candidato del Movimento 5 Stelle Cancelleri. Ecco perché Berlusconi se la prende con i 5 Stelle, insomma il candidato del PD Micari insomma dovrà accontentare, se va bene, del terzo posto, almeno ha poche chance, sembrerebbe però avere poche chance. Sarà, parlando anche con alcuni sondaggisti, decisiva sarà la reale affluenza alle urne, perché i siciliani non sembrano essere divisi, ecco, in due fazioni, Cancelleri e Musumeci, sembrano più indifferenti. Mm-hmm. A questa contesa politica, quindi se poi alla fine alcuni sondaggisti stimano che andranno alle urne meno del 50% degli aventi diritto, addirittura il risultato potrebbe ribaltare, certo, quello dei sondaggi. Insomma. Grazie tutto... Emilia, grazie mille, staremo naturalmente a vedere e naturalmente continueremo anche a raccontarlo questo avvicinamento al voto siciliano nel nostro GR delle 7 con il viaggio di Radio 24 dedicato a questo tema. Grazie mille a Emilia Patta del Sole 24 Ore, buona serata. Grazie a voi. Ci spostiamo un po' più in là, dall'Italia, c'è qui Sergio Nava che ci ha raggiunto, che ci sta un po' raccontando in questo periodo quanto sta accadendo in Catalogna, e in realtà ormai siamo fuori dalla Catalogna perché Puigdemont, come sappiamo, oggi ha fatto sapere che non tornerà in Spagna e non si presenterà in udienza davanti ai giudici domani. Che gioco sta facendo, Sergio? Sì, ciao Pier, innanzitutto, è difficile... capire quale gioco si stia facendo, anche perché i catalani negli ultimi mesi ci hanno abituato veramente a una creatività estrema su come arrivare all'indipendenza, uscendo chiaramente da ciò che è il seminato di dettame di leggi o costituzione spagnola. Sicuramente quello che sta facendo la grande manovra ormai è praticamente in vista delle elezioni autonomiche del 21 di dicembre. Alla fine, se vogliamo, Puigdemont non le ha convocate, ma le ha fatte convocare a Mariano Rajoy. Il giorno dopo la non convocazione e quindi la proclamazione dell'indipendenza da parte del Parlamento, è stato lo stesso Rajoy a convocarle, per cui la strategia, ed è evidente, è a questo punto provare a rendere queste elezioni un grande plebiscito in favore dell'indipendenza. È chiaro che se più del 50% voterà per i partiti indipendentisti o per una possibile coalizione indipendentista, tutto torna in gioco. E sicuramente la strategia di Puigdemont e della parte di governo invece che è rimasta a Barcellona e domani andrà a testimoniare, a deporre, sarà interrogata all'Audienza Nazionale o al Tribunale Supremo, anche qui sono divisi tra parlamentari o ex ministri catalani. Strategia chiara è in qualche modo stare sul campo organizzando questa campagna elettorale, stare fuori dal campo in Europa all'interno delle istituzioni comunitarie come governo in esilio, in modo da come dire, arricchire di contenuti questa campagna elettorale. Sergio, domani è un'altra giornata importante, lo stiamo ormai dicendo praticamente da mesi. Andrà avanti ancora per almeno andrà avanti due ancora mesi. Per tanto tempo. Grazie mille. Chiudiamo invece con il nostro Giovanni Capuano per uno sguardo a Napoli-Manchester. Giovanni? Sì, siamo nell'intervallo al San Paolo, 1-1 il risultato. Vi avevamo raccontato della straordinaria prima mezz'ora del Napoli con il vantaggio di Insigne al 21esimo. Nell'ultimo quarto d'ora la partita è completamente cambiata, al 34esimo c'è stato il pareggio di Otamendi di testa per il Manchester City, Manchester che al 39esimo ha colpito una traversa con Stone ancora di testa dopo che aveva avuto un'altra grandissima occasione con Otamendi, Manchester che ha chiuso il primo tempo riversato nella metà campo del Napoli. Dunque 1-1 il risultato, tra pochi minuti il via al secondo tempo. Grazie, grazie a Giovanni Capuano. Grazie a Chiara Compagnoni in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Vi lascio a Strade in diretta, poi speciale autotrasporti. Noi ci ritroviamo alle 22 con il GR.